Buonasera a tutti quanti, ritorniamo con Coccoli al Silicio in diretta il lunedì su Radio Wombat dopo una settimanina di assenza. Questa sera non ho in verità tantissime notizie da dare, mi volevo concentrare in realtà solo su un paio, ma sviscerarle abbastanza a modino. E ho aperto con del dissonante free jazz di John Coltrane, un album che si intitola Ascension, perché il tempo induce uno stato d'animo molto free jazz, secondo me, no? Atmosfera dissonante, il vento, così un po' di autunno alle porte, ecco. E non posso, purtroppo avrei voluto, ma in realtà questa volta non mi posso sottrarre, non posso che iniziare questa puntata parlando delle vicende di Facebook, perché effettivamente sono state molto molto ghiotte, cioè era un'occasione ghiotta e quindi vabbè, però penso l'abbiate lette un po' sui giornali. Diciamo Facebook ha avuto questo piccolo impasse, cioè che ha dovuto cacciare, diciamo, dalla propria sessione attiva 90 milioni di utenti, forzare una specie di logout, sì, perché sostanzialmente le credenziali di 50 milioni di loro erano state rubate, non delle credenziali nel senso di utenti e password, ma un oggettino che si chiama Access Tokens, che però è quasi peggio che se avessero rubato le password, perché sostanzialmente con questo è possibile, senza conoscere né la legittima password né bypassando anche la two-factor authentication, cioè l'autenticazione a due fattori, che non so, qualcuno di voi utilizza, è noiosissima, però qualcuno magari la utilizza. Ecco, però attraverso questo Access Token, che è questo gettone che viene utilizzato per riloggarsi in automatico senza rimettere la password, è possibile interrogare Facebook attraverso delle API, cioè un'interfaccia, diciamo, studiata per agganciare pezzi di software a Facebook, e quindi attraverso l'Access Token è possibile prendere i dati degli utenti anche senza essere entrati in possesso della password, diciamo, è qualcosa di più prezioso della singola password. E tant'è che appunto Facebook è stata costretta a fare questa figuraccia di cacciare tutti e poi dire sì, effettivamente abbiamo avuto un problemino. Questo problemino in realtà erano tre, nel senso che pare che questi hacker, questo gruppo di hacker che ha attaccato la piattaforma del signor Zuckerberg, abbia utilizzato tre diverse problematiche della piattaforma, legate più o meno da quello che si descrive, non è spiegato molto bene, però diciamo che utilizzavano essenzialmente tre bug. Il primo era legato a qualcosa che ha a che fare con l'upload dei video, come pure il secondo. Boh, che sì, diciamo, ed era una funzionalità che era raggiungibile attraverso una pagina chiamata ViewEase, che serve a vedere come ti vedrebbero gli altri, cioè a vedere come la propria pagina viene vista dagli altri, così capisci nel contorto mondo di faccia libro come appari al resto del mondo. Il secondo bug era sempre legato a questa roba dei video, dell'upload di video, e sostanzialmente generava un token che permetteva di loggarsi all'interno di Facebook, riferito però diciamo, all'utenza, cioè all'utenza, all'app, quindi utilizzata nell'ambito mobile. Perché questa cosa sia utile io non l'ho tanto capito, francamente. La terza parte del bug, che mi sembrava quella che ha dato poi veramente l'accesso alle API con questo Access Token, era sostanzialmente una roba, che da quello che si capisce in maniera un po' sbrigativa, come l'hanno spiegata, era qualcosa che aveva qui boh, wow, io non ci ho capito un cazzo. Sostanzialmente non si capisce bene, ma questa roba qua praticamente permetteva di generare un token per un utente che non sono io, ma era un altro a caso. Ma non ho mica capito come faceva. Comunque è tutto avvolto nel mistero, cioè almeno si è capito più o meno vagamente che cosa, qual era il problema. Però io nel dettaglio non l'ho capito e non l'hanno spiegato, secondo me, che cioè perché sia veramente comprensibile. Cioè sono rimasti sul vago. Hanno fatto dunque questa figuraccia che poi si va a sommare a un'altra vicenda che è rimasta più in sordina, ma che era andata alla ribalta delle cronache di tutto il mondo, e cioè che questo hacker taiwanese di nome Chang Chi-Wan, che è un nome noto in realtà nell'ambito dei bug hunter, cioè di quelli che si guadagnano da vivere trovando i bug e rivendendoli alle compagnie che se li comprano sostanzialmente. Ecco, questo hacker aveva lanciato in un post una sfida dicendo che lui avrebbe sostanzialmente cancellato l'account di Zuckerberg in live streaming, cioè in diretta. E avrebbe dovuto farlo, vediamo un po' quando, boh, qualche giorno fa, poi non l'ha fatto, nel senso che lui ha lanciato questa cosa, Facebook l'ha vista e l'ha contattato, si sono messi d'accordo, si sono messi d'accordo, ecco, il video era per le 6 del pomeriggio, sì, ma di che giorno? Ah, di domenica scorsa, le 6 del pomeriggio a Taiwan. Non so a che ora l'avrebbe fatto, tipo a mezzogiorno in Italia, boh, sì, una cosa del genere. Comunque, fatto sta che alla fine non l'ha fatto perché si sono messi d'accordo e ha scritto a Facebook, gli ha spiegato qual era il problema e sono rimasti amici così. Però, insomma, è stata una settimana bella faticosa per il signor Zuckerberg. Io non c'ho voglia di commentare perché mi fa fatica parlare di queste cose, però allora vi leggo invece un post passato sulla lista Hack Meeting un progetto del collettivo Bida che sostanzialmente pubblicizza invece, cioè sfrutta, e già avevano fatto l'impasse di Facebook per buttare un po' di sale in zucca alle persone pubblicizzando cioè spingendo una propria piattaforma di instant messaging simil social che si chiama Mastodon, di cui loro curano un nodo e qualcosa di cui sentirete parlare in maniera più approfondita, se ne avete voglia, sabato 6 ottobre presso l'ECLAB alla Polveriera qui a Firenze. Magari di questa iniziativa scriverò meglio nel blog, visto che è ormai prossima e alle porte. Comunque ne avevamo già parlato qualche settimana fa con proprio un esponente dell'ECLAB che ci spiegava che questa era la loro prima iniziativa, e quindi hanno chiamato qualche persona di questo collettivo basato a Bologna che viene a raccontarci un pochino come funziona e perché hanno fatto questo Mastodon. Ecco, loro hanno rilasciato un comunicato di commento a queste vicende che ora io vi vado a leggere perché appunto non ho voglia di fare un commento, quindi vi propino il loro che senz'altro sono più ferrati di me in materia. Ci risiamo. Facebook, un'azienda che vale più di 500 miliardi di dollari, infatti cioè, è un pochino, si intuisce, un pochino pompata la quotazione di Facebook, non è stata capace di difendere i dati dei propri utenti. Qualche giorno fa siamo venuti a conoscenza dell'attacco subito. L'unica novità è che per la prima volta siamo stati avvisati. Sì, perché se non ci fosse stato il GDPR e la minaccia di severe sanzioni economiche, probabilmente non l'avremmo neanche saputo. Tuttavia non conosciamo ancora nello specifico quali dati siano stati sottratti, da chi sia stato effettuato l'attacco e da dove sia partito. Forse qualcuno starà ora usando i dati biometrici degli account compromessi, o magari pubblicherà le nostre conversazioni riservate in qualche database. È questa cosa che non hanno spiegato bene cosa è successo, infatti era la stessa cosa che ho notato anch'io, nel senso che non riuscivo a rispiegarlo perché dalle quattro cose che hanno detto in realtà si intuisce ma non si capisce per bene. Non sappiamo che fine faranno quei dati e probabilmente non lo sapremo mai. Però qualcosa la sappiamo. Sappiamo che Facebook profila qualsiasi nostra attività e costringe gli utenti ad associare la propria identità all'account della piattaforma, con gravi ripercussioni per la privacy di ciascuno. Facebook ha anzi, negli anni, adottato varie contromisure per contrastare le tattiche di autodifesa digitale, volte a mitigare l'invasione della propria sfera privata da parte di questa multinazionale. Un utente non è più libero di creare alter ego virtuali, pena la cancellazione della piattaforma. Anche per questo dalla piattaforma. Magari la cancellazione della piattaforma sarebbe una pena bellissima per noi. Cioè, se tu sbagli e cancellano Facebook, bomba. Anche per questo motivo abbiamo creato un'istanza Mastodon. Un'istanza in cui un utente può creare tutte le identità virtuali che vuole senza bisogno di fornire numeri di cellulare o carte d'identità. Un nodo in cui la privacy viene fortemente rispettata, un'isola nella rete in cui gli indirizzi IP degli utenti non vengono registrati. Per questo motivo continuiamo a dire che l'unica soluzione è cancellare i propri account su Facebook e scoprire i social network decentralizzati, esplorando il Fediverso. E di questo Fediverso, insomma, ci parleranno meglio il 6 ottobre alla Polveriera, intorno alle 6:30, 7 di sera, dopo segue l'aperitivo e musica tranquilla, almeno così mi hanno detto. Il comunicato si conclude con un'alternativa ai social network commerciali è possibile oggi, join Mastodon. E questo è il comunicato, quindi vi invito, se vi interessa utilizzare un social network, a provare sto Mastodon, cioè comunque sarà sempre meglio delle schifezze che state usando. E con questo vi lascio a un pochino di John Coltrane, spero non vi strazzi troppo le orecchie, se non vi piace affari vostri, così è questa sera. Torniamo a noi con la seconda notiziola, questa volta vi voglio parlare di Linux, nel senso che spesso parliamo male di tutti gli altri, questa volta non vi voglio parlare male di Linux, ma vi voglio parlare di un problema che è emerso in questi giorni, nel senso che un ricercatore del progetto di Google Project Zero ha postato recentemente un proof of concept con un exploit che permette sostanzialmente di fare escalation dei privilegi per kernel abbastanza recenti, nel senso che il problema messo in evidenza risiede nel kernel di Linux, cioè nella parte, diciamo, del sistema operativo di quella più legata alla macchina, ecco. Questo problema interessa le versioni dalla 3.16 fino alla 4.18, quindi anche versioni piuttosto recenti, e permette appunto di fare un'escalation di privilegi cosiddetta, cioè partire da un utente e diventare utente root, cioè amministratore. Il problema risiede in una cosiddetta use after free. E qui volevo spendere due parole per spiegarvi questo concetto che secondo me è abbastanza interessante perché si ritrova spesso in questo tipo di attacchi. In particolare in questi ultimi anni le use after free l'hanno fatta da padrone soprattutto nei bug nei browser tipo Internet Explorer è dovuto. Cioè, è stato patchato più volte per problemi legati a queste use after free, anche, anche Firefox. Io ricordo distintamente, non penso sia una cavolata, penso di ricordarlo perché penso di averle anche parlato in pubblico di questa cosa, che l'exploit che possedevano quelli di Hacking Team, una vicenda di qualche anno fa, cioè questa azienda italiana aveva acquistato un exploit multipiattaforma perché girava su tutte le versioni di Firefox, mi sembra, sì, del tempo, non attuale. E l'aveva appunto acquistato e lo vendeva insieme al proprio prodotto, cioè un tool essenzialmente per il controllo da remoto delle persone, cioè un tool di spionaggio sostanzialmente. E insomma, vendeva questo prodotto e anche l'exploit che avevano acquistato era una use after free. Allora, forse merita spiegare che cavolo sono queste use after free, almeno così a livello intuitivo. Anzitutto è un problema che riguarda alcuni particolari linguaggi di programmazione, in particolare quelli che gestiscono direttamente l'allocazione della memoria. Nel senso che, diciamo, immaginiamocelo così, io alloco della memoria, cioè dichiaro che ho bisogno di X spazio nel mio programma per fare delle cose, dico con il mio programma, dico voglio che venga riservato un certo spazio nella memoria del computer. Questo spazio viene utilizzato per accedere a questo spazio, io gli faccio riferimento attraverso quello che viene detto un puntatore, cioè una variabile che mi dice a che indirizzo sta questa roba. Ora, siccome quando si pratica la gestione della memoria diretta, cioè che è il programma che alloca la memoria e poi deve anche ricordarsi di deallocarla, perché questa è buona pratica, nel senso che così come dico la voglio usare, quando non mi serve più io la dealloco. Ecco, in questa operazione viene detta free, nel senso che quando io voglio allocare la memoria faccio tendenzialmente un'operazione che si chiama malloc, cioè memory alloc. Allocation memory, si capisce, no? E quando la voglio liberare faccio la free. Ora, immaginatevi come se io avessi un cassettino, prendo questo cassettino e dentro il cassettino ci metto le mie chiavi della Panda sfigata, perché di solito faccio così. Poi, quando esco di casa, libero il cassettino e ripiglio le chiavi della mia Panda sfigata. Ora, supponiamo che mentre io sono fuori casa ci sia un'altra persona che ha il mio stesso metodo e utilizza il mio stesso cassettino che io avevo liberato e lui ci lascia dentro le chiavi della Porsche. Ora noi non ci incrociamo mai e se lui ripiglia le chiavi della Porsche prima che io torni a casa e rimetta le mie va tutto bene, ma supponiamo che io oggi torno a casa prima, di solito questo incrocio funziona, per qualche motivo oggi il mio programma della giornata è cambiato e io vado e mi trovo dentro il mio cassettino le chiavi della Porsche. Ho fatto l'escalation di privilegi, sono passato da una Panda sfigata ad avere la Porsche, essenzialmente perché qualcuno, dopo che avevo liberato il cassettino, l'ha riutilizzato. Io, in buona fede, vado a usare lo stesso cassettino e di conseguenza, boom, fatto. E questo è tendenzialmente, se ve lo immaginate, all'interno del codice di un programma quello che accade. Cioè io ho allocato un pezzo di memoria, poi l'ho liberata, ma per qualche motivo nel programma è possibile fare in modo che io vada a riutilizzare quel puntatore che andava a referenziare quell'area di memoria. Intanto quell'area di memoria è stata utilizzata per metterci dentro altra roba e io, zac, ho fatto sostanzialmente. Cioè nel senso che vado a ripigliarmi quello che c'era. Più o meno questo è la teoria, meglio che la riesco a spiegare, cioè più di così non sono capace, e quindi insomma era per spiegare in maniera intuitiva che cavolo sono queste use after free. Nello specifico poi del bug, in realtà è stato rilasciato un proof of concept che ha questa caratteristica, cioè di ravanare circa 40 minuti prima di darti la shell di root. Quindi è un bug che te lanci nell'attuale proof of concept che c'è, poi pare aspetti una buona 40 minuti, un'oretta, ecco, e alla fine ottieni zac che ti spunta fuori questa roba. I dettagli sono stati rilasciati pubblici, li potete trovare se siete molto curiosi, vi lascio poi un link magari a queste cose qua, se volete approfondirle. È qualcosa che riguarda diciamo una parte abbastanza esoterica della gestione della memoria in Linux, in particolare qualcosa che ha a che fare con vediamo un po' se si capisce, qui parla di VMA caches, e quindi ci avrà a che fare con la gestione della memoria virtuale. È una roba complessa che mi sa che anche a una prima lettura c'è da studiare tanto per capire di che cavolo si sta parlando, però voi non vi deprimete, cioè comunque provateci se siete intenzionati, pure se capite niente ma riuscite attraverso questo a approfondire altri quattro concetti legati, non avrete capito l'exploit ma magari avete capito altre cose che comunque sono interessanti. Cioè io di solito procedo così, punto alla cosa difficile, se non mi riesce comunque qualcosina avrò imparato, tant'è. E l'ultima notiziola ve la do dopo un altro pochino di musica, così ripiglio un attimo fiato. Su questa musichetta un po' pernacchiosa e dissonante, andiamo a parlare di jailbreak di iOS 12. Perché? Perché c'è un gruppo di hacker cinesi che è famoso per rilasciare sostanzialmente degli exploit, dei rootkit per bypassare diciamo le protezioni di iOS, cioè del software che c'avete, se c'avete roba della Apple, iPhone eccetera, per poter sostanzialmente rootare il telefonino e installare sopra quello che vi pare. Ecco, il gruppo di hacker di cui vi volevo parlare si chiama Pangu Hackers e avevano già rilasciato anni fa un jailbreak tool per iOS 9. Poi se ne sono stati buonini buonini e mo se ne sono usciti l'altro giorno con l'annuncio su Twitter che loro hanno un jailbreak per iOS 12. Pa-pa-pam. Che bypassa tutte le vari sistemi di sicurezza messi in atto dalla Apple. Questo coso dovrebbe funzionare, diciamo, per tutte le ultime versioni di iOS. Sì, no, funziona per la 12 che ci sta, che stia sia sugli iPhone XS che sugli iPhone XS Max. E quindi sostanzialmente tutti quelli che ci avete, cioè se ce l'avete, sì, li potete rottare. Solo che non hanno ancora specificato per bene quando lo rilasciano, perché finora hanno annunciato che ce l'hanno. Mi sa che hanno fatto vedere il video, ma non penso che l'abbiano ancora rilasciato, perché nell'articoletto si dice appunto che non hanno fatto ancora un annuncio ufficiale per scaricare questo coso. E quindi niente, sappiate che se vi siete comprati quel coso che è insomma l'iPhone di ultima generazione e lo volete ruttare, mo potete, se vi poteva interessare. Per me è interessante questa cosa perché questi oggetti sono sempre dei pezzi di codice estremamente interessanti anche da studiare. E quindi nulla, io volentieri me lo guarderei, un'occhiatina gliela darei. Poi l'iPhone non ce l'ho e quindi poi non è che me ne faccio qualcosa. Così per cultura personale, mica per altro. E con questa notizia vi lascio, ho fatto la mia sana mezz'oretta, questa volta sono stato corto, spero di non avervi troppo annoiato e scassato le orecchie con John Coltrane. Se non vi piace, però siete degli incolti, secondo me. E vi do appuntamento a sabato presso quel della polveriera verso le ore 18 per la presentazione di Mastodon, di cui abbiamo parlato a proposito della prima notiziola su diciamo la leggera impasse di questa settimana di Facebook. E quindi vi saluto per questa sera, una buona serata a tutte e a tutti, e vi lascio ancora un pochino di John Coltrane e poi si torna alla consueta musica di bobina e repliche di trasmissioni varie. Ciao!